Ciao Edi. Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi, simpatici ascoltatori di Radio F. Questa è Piazza Alta ed io accanto a me ho Enzino, Marzi e alle mie spalle Simone. Ciao simpatici amici! Come buonasera a tutti però! È vero. Cos'è? Siamo a giovedì, finalmente siamo a giovedì. Dodicesima puntata di, l'abbiamo detto, di Piazza Alta. Beh. Abbiamo salutato la nostra prima fan e quindi direi di andare con il primo pezzo. Grazie, ecco, nostro affezionatissimo pubblico, grazie di questo applauso spontaneo. Come siete esibizionisti. Ma allora, nemmeno poi tanto. Questo applauso arriva dall'Olanda, da Groningen. Grazie. Dove c'è un festival molto famoso che è l'Eurosonic, dove nel 2012 si sono esibiti, ora non facciamo troppa confusione, sono esibiti Vado in Messico e il brano che abbiamo appena ascoltato però è in Spain. Vado al massimo. Voglio dire anche una cosa, tra l'altro, lui è molto conosciuto in Olanda, Marzi. Marzi? Sì, per ovvi motivi. Sì, come hai fatto a sdoganare perché andava dalle signorine, andava dalle signorine. Nel quartiere russo, ma ne parleremo un'altra volta. Un'altra trasmissione, vedo, se volete. Faremo uno speciale. Le luci rosse. Sta diventando rosso come il suo maglione, perché come sempre, insomma, il vestiario di Marzi è tema di discussione. Ma chi siamo? Stasera è rosso-blu. Ma perché siamo qui stasera? Domandiamocelo un po' tutti. Allora, innanzitutto noi siamo qui per raccontare ai nostri ascoltatori gli aneddoti, le storie, le caratteristiche di Foiano. Grande. I personaggi di Foiano. Però stasera la storia di Foiano. Stasera avremo dei personaggi come ospiti, però io intanto direi come possono ascoltarci i nostri simpatici amici. Bene, partiamo da qua. Inizia tu, Marzi. Ma nel modo più semplice e tradizionale, nella nostra frequenza 101.2. Bravo, oppure in streaming su www.radiof.it, oppure scaricando le nostre app, che sono sia per Apple che per Android. Bravo, è che l'app si chiama Radio F, cioè devi scrivere Radio F. È chiaro. Adesso, tutta sul sito. Si crea confusione e poi dobbiamo ricordare in differita sul nostro profilo Facebook domani, sulla pagina. Bravissimo. Uscito fuoro. Devo alzare le mani. Bene. Sul fai massa, Marzi. Fai massa. Io faccio massa, sì. Infatti. Campo elettromagnetico non indifferente. Allora, sulla nostra pagina Facebook, Piazza Alta. Da domani troverete la puntata, il podcast che stiamo andando ad apprezzare. Sì, e infatti, proprio dalla nostra pagina Facebook, i nostri ascoltatori possono interagire con noi con commenti, ai like che ci piacciono tanto. Tanto saluti e quant'altro. Quindi sapete già come fare. Noi tra poco pubblicheremo anche delle foto dell'argomento che adesso la nostra Sara andrà ad introdurci. È vero. Allora, introduciamo subito l'argomento, d'accordo. Allora, continuiamo il clima che abbiamo iniziato la settimana scorsa, perché domenica è iniziato il Carnevale di Foiano, questo appuntamento importantissimo per tutto il paese. Questo me lo devi dire te, Marzi. 1976. E quando è iniziato, che giorno era, Marzi? Un giovedì grasso. Grasso. Come sempre accade a Foiano. Ma stavi dicendo, Sara? Sì, stavo dicendo che anche questa sera continueremo a parlare di carnevale, perché ormai siamo in pieno clima da carnevale in tutti i sensi, perché io vorrei farvi vedere quello che succede qui. Però stasera entriamo proprio nel vivo. La volta scorsa abbiamo sentito i quattro presidenti dei cantieri al telefono. Stasera abbiamo due ospiti, quindi infatti, due cantieri. Volevo dire che mai accezione fu più indicata. Entriamo nel vivo perché abbiamo due dal ospiti vivo, dal vivo. Chiaro. Vivi. Che... in carne ed ossa. Esatto. In carne ed ossa, non vorrei essere nei loro panni, nel senso, guarda come li abbiamo dove sono scelti, capitati. Lo vuoi dire tu? Per estrazione. No, allora dunque, parliamo dei cantieri del Carnevale di Foiano. Stasera parliamo dei primi due cantieri, nel senso che ci si rifacciamo all'estrazione di giovedì scorso dell'uscita dei cantieri. Quindi parliamo prima dei rustici e poi degli azzurri. Perché questo è appunto l'ordine in cui sono usciti i carri e le mascherate durante appunto la prima domenica di carnevale. Con il prossimo intervento, il rustico cantiere. Evviva! E vai! Getting meglio della tua, Enzo. Vado via? Perfetto, sono aperti i provini. Allora, qui... Vado già via o rimango fino alla fine? Tutti, scusa, andiamo via tutti insieme. Allora, intanto, Jacopo, ben arrivato. Grazie. E ti chiediamo ancora di pazientare un po', perché vorrei innanzitutto appunto presentare il tuo cantiere. Quindi noi, come sempre, facciamo un po' la storia, no? Di quelli che sono gli aspetti, in questo caso le caratteristiche dei vari cantieri. E quindi io ora sento i miei simpatici compagni di viaggio che vorrei si concentrassero. Siamo perché... guarda, prendo anche il pulsante. Perfetto, allora intanto ricordiamo che partiamo dal cantiere dei rustici perché seguiamo in rigoroso proprio rispetto quello che è stato l'ordine di uscita dei carri durante la prima domenica del carnevale di Foiano. Detto questo, allora però vogliamo Marzi e Enzino riassumere un po' brevemente, perché insomma la storia è lunga, però noi lo facciamo in due parole, la storia del cantiere bianco-azzurro. Che buffonata questa del pulsante, perché sì. Marzi dormiva. Allora, ora lo faccio, sveglia. Cara la mia Sara, e ti ringrazio ancora una volta sempre per questi interventi così importanti e ficcanti, direi. È una radio di servizio, Sara. No, è una radio seria. È una radio seria. I conduttori un po' meno. Il giovedì fino alle 22, poi dopo basta. Allora, il cantiere Rustici nasce nel 1933. Poi prego Jacopo, dopo nel prossimo intervento, eventualmente di correggere queste cose che ha scritto Marcello. Prendi nota Jacopo, se sbagliano poi li puoi bacchettare. Il nome Rustici identifica, o meglio identificava, la leggenda narra, ma poi sono sicuro che Jacopo ci correggerà, il carattere dei componenti del gruppo di lavoro. Scusate, ma vedi, parlo dei Rustici. Era solo un embolo. Non ti preoccupare. Anche questo è casuale. Tutto allora, quello che succede è puramente casuale. Però il cantiere biancazzurro, diciamo che è quello che ha l'albo d'oro più ricco. Ha 23 vittorie, la prima nel 1933, quindi praticamente nella prima edizione del nostro carnevale, e l'ultima nel 2012. Sono da ricordare molte opere veramente belle di questo cantiere. Inizio io, ma poi prego Marzi di continuare. La prima che mi viene in mente è quella del 1938, anno in cui venne realizzato il carro Vivere, che fu ispirata alla canzone allora in voga e che invitava ad amare, a ballare e a godere della giovinezza e dei suoi piaceri. Ma un altro carro storico, caro il mio Marzi, ma dimmi te. Qui intervengo io, caro Enzo, perché si passa al 1951 con il titolo Ritorna Valencia, se dico bene, vero? Carro nuovamente tratto da una canzone, da cui fu un carro molto ammirato per la sua notevole bellezza. Nei primi anni 50 poi non si giudicarono più i carri e dal 1955 al 1961 si verificò un periodo un po' di stanchezza che fece sì che le sfilate venissero interrotte. Altro carro importante per i rustici fu quello che fu elaborato nel 1968, intitolato I Beats al Carnevale. Vedo che annuisci Jacopo, quindi ho detto bene. Dopo un'ulteriore interruzione, sai, diciamo che te la fa passare il mio slang, vabbè. Yeah. Allora, dicevo, dopo un'ulteriore interruzione, caro il mio Marzi, che cosa volevi dire? Non si è perso. Mi avete un attimo interrotto. Quindi... Te lo dico via. Si riparte nel 1985. Oh, da qui in poi i rustici diventano i veri protagonisti. No, i veri sono tutti. Però, sì, diciamo, tra i protagonisti. Si evidenziano. Bravo. Riportando molte vittorie, ti do una mano, dai. Così. Velocemente, ricordo alcuni carri più belli. Bei tempi quelli dei grilli e delle cicale. E questo l'ha voluto leggere per forza lui, eh? Lo volevo scandire, esatto. Del 1988. Carnevale torna a ridere del 1991, per poi passare al 1994. E qui i rustici riescono a fare un tris di vittorie consecutive, 94, 95, 96, che non era mai riuscito a nessuno fino a quel momento. E concludiamo ricordando l'ultima vittoria, quella del 2012, con il carro Mala Tempora Corrunt. Avenue Park, my life in the dark, I with me. Do you smile for Arabian style? Miami Beach voice, children with voice across the universe. Shout, song, ego, sound free, sound, sound, song. Cantautore che piace molto al nostro Marzi, lui è il maestro Franco Battiato e il brano che abbiamo appena ascoltato è Chanson et Gossin Trick. E finalmente stiamo prendendo un po' di classe, un po' di vieni più vicino a me, perché anche nella selezione musicale questa cosa va a finire. Questo programma mi piace anche, guarda, sono sì, me lo sento, su Battiato hai avuto non un non vi dico come lo sento, ma vabbè. Allora, torniamo al nostro torniamo a noi perché allora abbiamo tratteggiato per sommi capi la storia del cantiere dei rustici. Sentiamo, io ricordo Jacopo, che abbiamo che Jacopo è il nostro primo ospite, Jacopo Liberatori, proprio dal cantiere dei rustici. Intanto Jacopo, io ti chiedo questo, e quello che hanno raccontato questi due per signori, sommi capi, per sommi capi, innanzitutto confermi tutto quello che è stato detto, a parte il currunt il currunt finale ma se non do un po' di tono, un po' di peperoncino, un era po' di... preparata, gli è venuta chiaro, bene, ma era preparata. Chiaro. Io studio settimane per fare errori di grammatica. Quindi vai Jacopo, allora, raccontaci. Confermo tutto quello che avete detto, anche se la storia è totalmente parziale e non definisce bene il nostro carattere, e soprattutto vorrei evidenziare il nome che ci contraddistingue, scusate l'emozione. Vai tranquillo. Sono emozionato anch'io. Il cantiere rustici, la parola rustici deriva più che dal carattere, chiaramente il carattere rustici è rimasto fino ai giorni nostri, ma deriva da un fatto che è avvenuto proprio nel 1933, quando il nostro cantiere ha preso vita. Si narra, si racconta, noi non c'eravamo, che in realtà il nome Rustici derivasse da uno strano avvenimento avvenuto prima della prima giornata del primo carnevale con i carri allegorici a Foiano, in cui un giornalista preso e voglioso di intervistare uno dei nostri canteristi abbia bussato alla porta, ma gli fu risposto picche, nessuno lo accolse benevolmente, e rispose a tutti: ma voi siete proprio Rustici? E dall'altra parte si sentì rispondere: ecco, questo è proprio il nostro nome. E quindi da lì nacque il nome del cantiere. Ma come siete organizzati al vostro interno, Jacopo? Quanti siete? Dacci qualche informazione un po' più sulla vita del cantiere. Ma nonostante la crisi, che per noi è soltanto una crisi economica, il nostro cantiere è costituito da circa una trentina di persone, 25. Poi è chiaro, le dinamiche del carnevale le conosciamo tutte, e si parte dai primi albori del carnevale in estate, a giugno-luglio, in cui in realtà al cantiere circolano solo pochissime persone, fino ad arrivare ai mesi di gennaio e ai giorni di oggi, in cui il cantiere è molto numeroso, composto anche da gente che magari arriva nelle fasi successive del lavoro. E tra l'altro, se non sbaglio, la vostra mascherata è quella più numerosa, vero? Da quello, diciamo che direttamente non mi sono occupato della mascherata, perché fortunatamente abbiamo un folto gruppo di persone che si occupano della mascherata. Il nostro gruppo di giovani, la Rustici Immagine, che si occupa sia di mascherata ma anche di eventi, di realizzazione di feste, di gadget, si occupa principalmente di quello. Da quello che ho sentito dire, sembra, e penso di confermare, che il nostro gruppo di mascherati è il più numeroso e conta circa, se non di più, 120 persone quest'anno. Senti che movimento. E altre differenze che puoi raccontarci rispetto agli altri tre cantieri? Oddio, parlare di differenze tra il nostro cantiere, io ho vissuto da quando sono nato, da quando mio babbo mi ha fatto solcare per la prima volta l'uscione del cantiere, ho vissuto solo questo di cantiere, quindi è molto difficile parlare del proprio cantiere nei confronti degli altri, soprattutto è difficile parlare del cantiere dei Rustici nei confronti degli altri. L'unica cosa che sono sicuro di poter dire è che la differenza che fanno i Rustici rispetto agli altri cantieri è il numero di vittorie. E qui il silenzio calò nello studio. Sì, è calato il gelo. C'ho un ruolo bruttissimo io. È calato il gelo. E allora il nostro sono i numeri che ha pubblicato delle foto proprio sulla nostra pagina Facebook, così ricordiamo ai nostri ascoltatori di seguirci anche attraverso le immagini. E una mostra uno dei primi carri dei Rustici, che è legato anche al vostro simbolo, vero Jacopo? Esatto. Nel 1934 i Rustici sfilano al Carnevale di Foiano con un po' di Oriente al Carnevale, e presenta quel carro giusto 80 anni fa un elefante. La coincidenza, e vi garantisco che non è una cosa voluta, ha voluto che proprio quest'anno i Rustici ripresentassero un elefante. Come finì nel 1934? Stranamente, e qui ci metto un tono ironico, vincemmo. We'll be right back. Hanged Man, questo è il titolo del brano che sta sfumando in sottofondo. Loro sono i Bee Forest. Ora, ragazzi, non lasciatevi ingannare dall'inglese, perché si tratta di un trio italianissimo originario di Pesaro. Ah no, pensavo dice se non lasciatevi ingannare dall'inglese perché non lo so. Di che anno è il cantante? Dimmelo. Del 1976. E il gruppo è stato fondato in che giorno? Di giovedì. Ma no, ma forse no, perché non erano di Foiano. No, e allora solo no. A Foiano succedono no. Di giovedì. Allora, funziona così, ogni tanto dobbiamo lasciarli sfogare. Mi rivolgo al nostro primo ospite, che è Jacopo Liberatori, per chi si fosse sintonizzato adesso. Del cantiere, non mi sfugge? Del rustico cantiere, bravo. No musica, fermo, basta, ci sono e vanno lasciati dobbiamo sfogare, tenerli. Jacopo. Allora, tu ci hai un po' descritto il tuo cantiere, ora però vorrei arrivare al presente, quindi all'edizione 2014 di questo carnevale di presente Foiano. Potrebbe essere io rustico, tu rustici, egli rustica. Enzo rustica. Ma non gli vai. Ma perché? Però cioè, gliel'avete sentiamo servita. Questa leggera credita, questa servita. Leggera vena polemica. No, attorno a questo tavolo c'è un campo strisciante. Elettromagnetico non indifferente. Se sentite interferenze dipende da quello. Ecco, questo è l'amico di Marzi invece. E quindi, scusa Sara, ti ho interrotto, ma c'era un motivo. Prego, parli certo. Prego. Io. Bene. Bene. Quindi, tornando a noi, Jacopo, che novità ha introdotto il Cantiere dei Rustici quest'anno? Allora, di novità importanti nel Cantiere dei Rustici nel 2014 a livello di manifestazione non ci sono. Il carro è bellissimo e non è una novità, questo è chiaro. Chiaramente un giudizio imparziale che noi condividiamo. Certamente, certamente. Di novità ci quanta sono. Quanta sofferenza. Di novità ci sono, ma non sono sicuramente a livello di bellezza di carro. Le novità più importanti che abbiamo introdotto, e vi racconto tra le altre l'ultima, è quella di aver prodotto, restaurato, chiamiamolo così, il nostro inno ufficiale. Tra breve, tra qualche giorno sarà disponibile, e ringrazio anche il gruppo degli Elefunk, che sono per l'appunto un gruppo di Foiano, per aver avuto la disponibilità di ricantarci nuovamente il nostro inno e averlo modernizzato, funkizzandolo, come dicono loro. Altre novità, che non sono poi delle novità, è il folto calendario di eventi che il nostro cantiere ha in mente di fare già da domani sera, con il San Elefantino, che è una parodia del San Valentino proprio in clima carnevale. Verrà anche Enzo, dice. Sì, sì, sì, sì. Lo special guest. Ora volevamo, insomma, non svelare. Ma io mi domandavo se il riarrangiamento dell'inno del Cantiere Rustici è un caso che esca sotto nel periodo di Sanremo. Sicuramente avrebbe vinto. Avete delle velleità anche a livello di concorso canoro. Dirige il maestro. Bene. Non farci caso. Bene, e allora. Io ero curioso invece, ecco, cara Sara, se Jacopo ci racconta, perché all'interno della dinamica dei vari cantieri ci sono sempre dei personaggi, degli aneddoti che spiccano e passano onestamente alla storia sia del cantiere ma anche del paese, per qualche avvenimento, per qualche cosa di simpatico, di interessante. Ci puoi dire qualche cosa, qualche episodio o qualche personaggio? Il cantiere, lo sappiamo tutti, a Foiano vive di aneddoti, vive di momenti, vive di un gruppo che comunque vive la propria esperienza dentro il cantiere proprio cercando situazioni e momenti di divertimento e momenti in cui si possa ridere e scherzare, oltre che realizzare un qualcosa di bello per il paese e per il proprio gruppo. Vi posso raccontare fatti simpatici avvenuti negli ultimi tempi, quali ad esempio, non faccio nomi, ma persone che hanno messo a far bollire l'acqua per la colla per fare la cartapesta su secchi di plastica. Con risultati. Venuta benissimo. Immaginiamo che era un tutt'uno, capito? Sì. Era diventato un tutt'uno. Sicuramente avrebbe fatto più presa di la colla normale. Ecco il vostro segreto della cartapesta. Sì. Te l'ho svelato, te l'ho finalmente svelato. Adesso l'ho capito. Attenzione, perché così l'hai svelato a tutti. Sì, infatti devo stare raccontarne. Attento a quello che dici. Altre persone che, dimenticandosi che il carro avesse delle marce, lo hanno messo in moto e hanno fatto dei danni ingenti sia al carro che anche al cantiere. Pensa che di sotto il cantiere dei carnevali c'è la Val di Chiana, proprio tutta intera, quindi è fatto apposta. È una sorta di via di fuga. Esatto. L'ultimo aneddoto che posso raccontare, ma che diciamo è uno slogan per quelle persone che vengono al cantiere ma che in realtà vengono soprattutto a guardare, che li definiamo come quelle persone che tentano di tosare i maiali, i tosa troie cosiddetti. Meraviglioso, che vengono e non fanno. E su questa poesia questo, sì, direi scusate l'eufemismo, no, era indispensabile, rende benissimo, anzi guarda, voglio dire anche un'altra cosa. Meglio esatto, di così, esatto. Ecco, vedi, quindi perfetto. E allora io direi che non ci resta che ringraziare Jacopo Liberatori per la sua disponibilità, la sua simpatia e per averci presentato il primo cantiere in ordine di uscita, ovvero il cantiere dei Rustici. Grazie Jacopo, ciao. Grazie ciao a voi, ciao, in ciao, bocca ciao, al lupo. Ciao, crepi. Love in a Trash Can, questo il brano appena ascoltato. Senti, Love in a Trash Can. Dei Ravenets. Dei Ravenets. Ricordo i Ravenets. Altro momento testimonianza. Utite. Ricordi? Ricordo il gattolino. Che stai facendo? Ti senti in cuffia, Marzi? Ma io mi sento. No, più che altro ti senti in colpa, Marzi. Questo. No, il mio analista. Il mio analista ha detto che devo superare questa fase della colpa. Sì. Gli è venuta passo male al dolo, e passi al dolo. Bene, allora io direi di passare a presentare il nostro nuovo ospite. Aspetta, perché c'è stato un la cambio. La fantasia ci ammazza. So. A Foiano in quegli anni c'era un nome che piaceva. Ed era Jacopo. Era Jacopo. Non stiamo scherzando stavolta. Statisticamente perché nostro... potremmo anche vincere al Super Enalotto. Perché l'ospite di questa sera, il secondo ospite di questa che viene sera a rappresentare, a parlarci del secondo cantiere in ordine di uscita, ovvero del Carnevale, gli Azzurri, si chiama Jacopo. Jacopo. E allora andiamo avanti. Io, però Jacopo. Franci, in questo caso è Jacopo Franci. Beh. Ciao Jacopo, ciao, benvenuto. Ma in realtà sono sempre i Liberatori, però ora parlo degli Azzurri. Guarda, stai simulando bene. Ora voglio vedere se parli bene dei Rustici, però. No, degli Azzurri devi parlare bene. Però. Sì, ecco, e già abbiamo creato confusione. Se il tifo è tifo, non lo può fare. Confusion. E allora, veniamo a noi. Dunque, tu Jacopo adesso ascolta quello che dicono questi due tizi, perché... Come fu? Allora, come? Adesso loro presenteranno il tuo cantiere, ovvero quello degli Azzurri. Cara la mia Sara, quanto è vero, ma eh? Quante domande intelligenti fai? No, ma non ho fatto una domanda, però... In compenso Marzi non ormai... dà mai risposte intelligenti. Allora, ormai ci ha abituato a delle domande. Aspetta veramente... che entro nella parte, Mimì. Eccoci. Allora, possiamo ben dire, cara la mia Sara e cari miei amici che mi state ascoltando, quelle sono le mie, che la storia dell'associazione Cantieri Azzurri segue un po' la storia del Carnevale di Foiano, mantenendo però unico cantiere la, e questo è importante, poi Jacopo ce lo ridirà, la continuità dell'impegno anche nel periodo cosiddetto buio, cioè dagli anni 70 fino all'84. Un po' il medioevo del Carnevale. Bravo. Il periodo buio. Ed è un il Cantiere Azzurri è un indiscutibile, ha un indiscutibile ruolo di apripista, sia nelle innovazioni tecniche costruttive che pittoriche, musicali, soggettistiche direi. Le prime notizie, pensa Marzi, lo dico a te che proprio niente, relative al Cantiere Azzurri sono del 1932. Quando? Nel 1932. Quando due gruppi di giovani amici foianesi si impegnarono nella costruire in modo spontaneo, ognuno all'insaputa dell'altro, nella costruzione di carri allegorici per partecipare alle manifestazioni di allora. Giusto? Penso, ecco. L'avessi scritto io. Marzi, ti vedo un po' in imbarazzo. Liberati da questa. Aspetta, che ce la faccio perché mi sta andando via la voce come sempre. Sta anche diventando rosso perché sto urlando. Allora, si impegnarono in queste costruzioni, ora te lo dico, e già da alcuni anni venivano organizzate con carri matti e altre invenzioni bizzarre. Non ce la faccio più, aiuto. Allora, guarda, prendo un attimo la parola io, cara Sara, ringraziandoti di questo silenzio intelligente nel quale non ci hai interrotto. Riprendendo l'argomento, se ti faccio una domanda ti perdi, vedi, non sai neanche più dove sei. Allora, questo strozza, Jacopo in compenso, ricordo, se la ride. Voglio ricordare subito, ricordo due importantissimi carri dal titolo La due lingua soli delle donne, di cui tu potresti anche dopo aprire una lunga Il ritorno dalla Pampas. Quest'ultimo vince il primo premio e probabilmente funge da collante tra le due fazioni, i due gruppi di giovani che all'oscuro l'uno dall'altro stavano costruendo carri per lo stesso obiettivo, pensa, all'insaputa l'uno dell'altro. Ce lo vogliamo dire tra di noi o così? Sono quelle piccole cose stasera che stasera sono intimi, sono così carini, è la vigilia di San Valentino. L'anno dopo, cara Sara, venne fuori proprio il nome degli Azzurri per l'uso dominante di questo colore nelle opere e presentano lo Scarpino, un carro che entrerà di diritto nella storia del cantiere e del Carnevale di Foiano. Dal 1933 al 1939 gli Azzurri si aggiudicano due vittorie nel 33 e nel 34 e due secondi posti nel 35 e nel 38. Confermi Jacopo? Sì, confermo. Ecco. Perché chiaramente dopo il sei... fermo per il conflitto bellico si riprende la gara con una vittoria nel 1949 con i Pompieri di Vigiù, che è uno straordinario carro passato alla storia, direi. Bravo Marzi, ora però devi andare un pochino più veloce. Ed un secondo posto nel 51. No, ma voglio arrivare a un punto che mi coinvolge. Anni di crisi per tutta la manifestazione, dal 70 all'84. Ma nel 73 Guerrino Tiezzi e Vincenzo Bigozzi decidono di riaprire le ostilità. Inizia così il periodo chiamato degli appalti, in quanto non esistono più i cantieri, tranne gli Azzurri, e gli altri carri vengono costruiti da gruppi di persone di varia estrazione cantieristica. Quattro vittorie, 1977 con Vai alle Hawaii, se vuoi scordare Hawaii. Ok, vai veloce, 1978 con Mamma di Corsari. 1980 compluto in allegria, 1982 è qui che dopo riprendo la parola con Papaveri e Paveri. No, dimmi subito, che cosa è successo nell'82 con Papaveri e Paveri? Ti sei mascherato con gli altri. Da papavero. Ho delle foto dell'epoca che proprio... mi ritraggono da papavero. Ma dopo questa papaverata facciamo un salto in avanti. Le avete bruciate, vero? Quelle e cose. Arriviamo. Vero? È vero, è vero, è vero, è vero. Nel 1996 sono faccio una traumatizzata. Purtroppo il 1996 è stato un anno funesto per il cantiere degli Azzurri. Il pomeriggio del sabato antecedente la prima domenica, che durante... ti ricordi dove eri tu? Io sì, mi ricordo, ero insieme a te. Durante gli ultimi ritocchi al carro, accidentalmente si sviluppò un incendio che in pochi minuti distrusse completamente il carro e anche l'intero cantiere. Ovviamente questo fece come, aiutami a trovare delle parole. Fu una, un momento difficile. Bravi, aiutatemi. Fu un momento difficile quasi quanto il mio in questo momento. E purtroppo gli Azzurri ovviamente nel 97, avendo solo pochi giorni a disposizione per costruire un carro, fecero un regalo vero e proprio alla manifestazione e in 20 giorni costruirono un omonimo carro. Anche in quell'occasione decisero di voler partecipare, esatto, ai carnevali di Fogliano. Nel 98 poi si ritorna a fare sul serio e viene ripresentato dopo due anni Opera Ultima, un carro che raccolse il consenso di tutta la piazza, dei cantieristi avversari e di tutti gli spettatori che si unirono in un unico sincero applauso allo sfilare del carro. E per concludere vi diciamo che gli Azzurri sono i campioni in carica in quanto hanno primeggiato nel 2013 con il carro intitolato La Grande Bufala. Vincent, questo è l'artista e il brano, il titolo del brano è Birth in Reverse. Pensa, avevo capito San Vincent e Sanremo, deve essere il titolo era Roulette. Sì, russa, proviamo. Allora, no, basta, non perdiamo altro tempo perché veramente vorrei dare subito la parola a Jacopo Franci che è qui freme. Momento per testimonianza. Momento testimonianza. Momento testimonianza. Guarda che presentazione che t'hanno fatto. Allora Jacopo, che ci dici? Quello che ci hanno appena raccontato Marzi e Enzino sul cantiere degli Azzurri, verità. La verità, lo confermi, l'accendiamo? Corrisponde alla verità, alla piena verità. Bene, lo sottoscrivo. Non è poco, sottoscrivo. Questo vuol dire che noi, che con il metodo Mostaccioli, andiamo a ritroso nella storia e troviamo fonti... Ma di chi era l'allievo il Mostaccioli? Ah, ora ci perdiamo, vai, lasciamo dillo te. Lasciamo perdere. Pietro Larrotino. Ma sì, ma prosegui. E allora, Jacopo, portaci tu all'interno del cantiere degli Azzurri, dai, raccontaci un po'... Hai un ruolo specifico all'interno del cantiere degli Azzurri? Sì, lo stesso del mio predecessore Jacopo, cioè, di se, prima. Se ti chiami Jacopo, puoi fare solo Jacopo, posso solo fare che cosa? Il segretario del cantiere, chiaro. Che poi dopo è un mero titolo, insomma, poi siamo tutti cantieristi. Diciamo, più per distinguersi uno di quelli che lavora di più. No, assolutamente. Ma bravo, senti, come sono questi cantieristi degli Azzurri? Ma sono tutta bella e brava gente, insomma, siamo... A parte il presidente. A parte ovviamente il presidente, che purtroppo... Siamo una... nota un certo astio nei confronti del vostro presidente. Sì. Ma no. Ma guarda che io ho una simpatia particolare per il cantiere Azzurri, ovviamente dopo il cantiere Bombolo, per ovvi motivi, insomma, però diciamo che... Siete un però Enzino un cantiere, non la trasmette. Siete un cantiere numeroso, voi degli Azzurri? Ma senti, siamo tutti quelli che c'erano un cantiere a fare il carro, una trentina di persone, e poi ci sono tante altre persone in giro, insomma, chi prepara le cene, chi pensa poi al banchino della domenica, ci sono tanti tesseramenti, ci sono tante cose poi da fare in un cantiere, anche perché... Ormai, come sapete bene, il cantierista non è solo da quei 4, 5, 6 mesi all'anno, ma tra poi fare tutto il carnevale, le cene e il carnevale estivo, alla fine diventa quasi un anno intero, quindi c'è molta passione per fare questo. Senti, prego Sara. Vai Enzino. No, siccome il tuo Jacopo predecessore ci ha parlato della rustici immagine, sì. Voi avete l'Azzurri Style. Questo è l'Azzurri Style. Raccontaci un po' di che cosa si tratta. Questo qui ormai sono già diversi anni, ora negli ultimi 2-3 anni siamo cresciuti notevolmente, che dopo la prima di carnevale iniziamo a fare delle scene. Abbiamo fatto anche durante l'anno per Halloween diverse cose. Ora posso fare una piccola marchetta, insomma. Certo. Iniziamo da venerdì, non questo che è San Valentino, che ormai è una festa che fanno proprio quelli messi peggio, insomma. La festa di San Valentino, giusto appunto. No, lui intendeva quelli che si chiamano Valentino, che non è un gran bel nome. Sicché lasciamo perdere il San Valentino, ma iniziamo da venerdì prossimo con 3 cene a tema, che ormai ci portano più di 150-200 persone tutti i venerdì in cantiere, cena dopo cena, e sì. È una cosa ormai affermata. Se ci vuoi dare anche un po' il menù? No, il menù pensa molto, va sul concreto, però magari descrivici l'atmosfera di queste scene. Le scene che facciamo sono tutte cene a tema, facciamo per fare sempre una cosa di diverso. Per esempio la prima cena sarà un American Pie, che è una cena normale, però bandiere dell'America, vestiti in maniera stravagante. La seconda scena è la scena al contrario, che è quella un po' più particolare, dove si inizia dalla mazza caffè, secondo, primo, antipasto e aperitivo. E chi è la scena che ha avuto... questo ti crea un attimino dei cosi, però è da provare, secondo me. Gli occhi che mi brillano come un panda. In assoluto la scena che ha avuto più successo l'anno scorso, la riproponiamo quest'anno. Poi l'ultima scena è quella del... facciamo Asterix e Obelix, che c'entra anche un po' con il carro, l'idea del vichingo, e cena con le mani, ovviamente non si può fare una cena normale. Giustamente. Certo. Prima di andare con il prossimo brano, sì. Come dicono quelli bravi, chiaro. Abbiamo chiesto appunto anche prima, ci ripetiamo con un paio di domande, ma perché sono interessanti. Secondo te che cosa vi differenzia dagli altri 3 cantieri? Qual è la vostra caratteristica per cui... Ma credo intanto, vabbè, c'è un minimo comune denominatore. Perché votare per i rustici? Perché dobbiamo votare? No, dovremmo per gli Azzurri. Ah, scusa. Beh, niente, la mandiamolo via. No, una cosa... ovviamente... Perché dovremmo votare per gli Azzurri? Una cosa che accomuna tutti i cantieristi, ovviamente, è oltre il fatto di fare qualcosa per il carro, per la vittoria e tutti, anche... fare realmente qualcosa per il paese, quello sia, credo che sia una cosa importante che ci accomuna tutti. Poi ovviamente la diversità sta nella storia, sia del cantiere, nello stile, e poi c'è chi può stare più antipatico con un cantiere, la rivalità è tutto, però insomma alla fine quello che conta è fare dei bei carri, divertirsi, poi siamo tutti amici, a parte in quel periodo un po' particolare, ma soprattutto anche un discorso che va nel passato, insomma la storia dei cantieri una volta non erano divisi erano divise un po' per classe sociale, sicché sì, quella cosa lì che ormai non esiste più, però secondo me un qualcosa ancora è rimasto. Bene. E senti Jacopo, Jacopo prima di te raccontava che lui è entrato nel cantiere dei Rustici attraverso il babbo, ce l'ha portato lui. Tu come ci sei entrato nel cantiere degli Azzurri? Senti, io invece attraverso il nonno. Il cantierista nonno, storico. Cantierista storico, era lui e pochissimi altri ormai sono rimasti, gente di più di 80 anni, 80, 84 anni a fare il carro dalla mattina alla sera. Storico, faccio anche un ricordo, erano le sue arrabbiature quando si trovavano la mattina alle 6 in cantiere con Franco Cervasi, che erano sempre loro la mattina. Una volta mi ricordo, ero presente anch'io, doveva venire, non ci funzionava il riscaldamento, cosa che è successo spesso, però i Rustici, insomma, mi sembra che l'avevano chiamato prima questo tecnico, sicché questo tecnico poverino, non di Foiano, dovette andare da Rustici, mi nonno lo rincorse dietro, ma sempre voi anche su quello sono arrivati prima, cioè storiche cose che rimangono nella storia del cantiere, che fa piacere ricordare ogni tanto. Your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been? Well, I am. Well, I know you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. una chitarra inconfondibile. Guarda, non avrei saputo trovare aggettivo faccio? Differente. Ma come faccio, ragazzi? Stiamo parlando di Jimi Hendrix. Marzi, delle ti prego, Marzi, ti prego, fermati qui. Perché questo dillo, era Jimi dillo Hendrix. Che hai detto fuori onda, dillo no, che hai detto mentre Jimmy faceva la sola. Tappati le orecchie. Dopo l'incompiuta la sinfonia. Che cosa stai dicendo? L'incompreso. Comunque, ha detto, ma tu, come hai detto, è rotta? No, è rotta. No, vabbè. E comunque, questo era un brano di Jimi Hendrix. Are you experienced it? Sì, sono esperienzato. Sì, sono esperienzato. Sei esperienzato. Stavo pensando come sì. Passa il tempo quando parliamo di argomenti interessanti. Perché vuole fare veloce. Sì, infatti, dobbiamo andare rapidi perché il tempo è ma Jacopo volato. È qui con noi. È qui con noi. Cioè, l'hai sentito in cuffia, l'ho vero? Sentito. Il tuo ma timpano ha da sentito. Papavero. Allora, Jacopo del cantiere degli azzurri. Quale momento continua? Il momento testimonianza. E quindi Jacopo, ti chiediamo, tu già ci hai raccontato un po' di aneddoti, ora però hai iniziato a dircene uno in fuori onda e questo lo dobbiamo veramente riportare ai nostri ascoltatori. Sì, vai. Non so se vi riesce a raccontarlo, qui ci vorrebbe. Fai come ti viene. Guarda, Marcello fa radio, figurati se vuoi raccontare una cosa. Uno dei tanti aneddoti che è successo, questo è anche nel nostro libro, uno dei più simpatici, 2 o 3 anni fa. Nel momento del carnevale, ovviamente, tra tensione, qualche birra in più, a volte scappa. Si sa che è diuretica la birra. Capito. Sicché 2 o 3 belle persone decisero di entrare nel carro. Il carro, ovviamente, è il pianale, le figure vanno oltre e quindi... C'è spazio sotto, sicché se la fante vede nessuno. Il carro stava sfilando e si vede questa scia già... giallo passerino che tra l'altro con noi ci dice certo, questa scia certo. Giallo passerino e dietro il nostro meccanico che guardava o dando perde sto carro sicché non convinto poi con le mani da una sfregatina in terra annusa sì è olio qui c'è qualcosa che non va. Comunque c'è da dire che preoccupante anche chi l'aveva fatta perché se sapeva d'olio vuol infatti, dire infatti pare che poi dopo abbiano fatto degli accertamenti siano stati riscontrati dei valori piuttosto alti di trigliceridi dal carro esatto. Meraviglioso. Ecco, e allora proprio parlando di carro, qual è il titolo quanto del è brava carro la di quest'anno? Maledetto. Cavalca tue sogni osa. Abbiamo appena pubblicato la foto. Che la, bravo. La foto è bellissima. Il carro del carro non posso parlarne io, ragazzi, è inutile che continuate. La foto è bellissima. E dici in 2 parole che cosa rappresenta? Ma qual è il messaggio? Sì, siamo andati a rompere addirittura la mitologia. Gli altri un po' l'hanno detto, insomma, come anche l'anno scorso. Alla mitologia germanica del nord abbiamo il dio dei dei, insomma, Odino, che rappresenta insieme al suo cavallo 8 zampe, rappresenta il sogno, l'osare nel fare le cose. Ovviamente, cavalcando i sogni, cavalcando le speranze, c'è sempre dei pericoli e nel sotto del carro c'è la medusa che rappresenta un po' questi pericoli nella vita, detta proprio in modo striminzito. Il carro sicuramente è ben realizzato, secondo noi uno dei meglio che abbiamo fatto negli ultimi anni e quindi avete... speriamo bene. Quindi pensate di fare il bis? Ma poi da fare un bel carro e sfilare bene a vincere, la storia ci insegna che ce ne corre parecchio, però insomma una bella figura l'abbiamo fatta. Ma già poi essere soddisfatti del proprio lavoro. Soddisfatti del proprio lavoro è una grande vittoria. È importante. Ti volevo chiedere invece, Jacopo, riguardo la mascherata della vostra, ancora non abbiamo parlato. Siccome negli ultimi anni so che cresce di anno in anno il numero dei partecipanti alla vostra mascherata, questo è indice del fatto che i ragazzi si divertono. I ragazzi si divertono, abbiamo una bella mascherata, poi noi mettiamo sempre al centro, e questo grazie anche ai nostri responsabili della mascherata, mettiamo al centro i bambini. È vero. Che è una cosa molto importante. Anche quest'anno non facciamo un balletto, ma facciamo proprio una messa in scena con i bambini al centro. È una cosa molto simpatica. Molto simpatica, sì. Guarda, lo dico io con la morte nel cuore, ma insomma, è veramente molto simpatica. Ma quest'anno le mascherate sono belle, veramente, sono tutte veramente belle. Sì, diciamo che è una parte della manifestazione che sta crescendo veramente di qualità. Ma anche perché se entra la competizione, anche lì è chiaro ovviamente che uno tutti gli anni ci prova, esatto, anche a quello. Esatto, certo. Pare, ragazzi, che siano diversi anni che la mascherata cresce. Mi sembra di ricordare che è dal 1976. Io lo guardo, certo, in faccia, dico, e sta per credi, dire, posso dire una cosa? Anche. No, questa è una cosa a me cara. Io ricordo con tanto affetto, andando indietro nella memoria, il Galeone. Che non c'entra che niente, non c'entra con gli niente, c'entra. Ma io trovavo posto soltanto nel Galeone. Era il posto più bello e più comodo per dare le manganellate e per tirare con le. Un teppista. Abbiamo un teppista, no, con le pistole, scoperto, ad acqua. Si è scoperto finalmente. Ma era un locale, il Galeone. No, era. Purtroppo, ragazzi, abbiamo dei problemi grossi. Vabbè, io direi di finire qua. Ringraziamo, sì, Jacopo, sì, per la testimonianza, anche la sua testimonianza e la sua simpatia. Assolutamente. E nel segreto dell'urna facciamo, sì, un in bocca al lupo al carro degli azzurri. Fallo tu, io non me lo far fare. E ovviamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori al Carnevale di Foiano, alla seconda domenica del Carnevale, per vedere i carri dal vivo. Noi invece diamo appuntamento a tutti a giovedì prossimo, come sempre. Guarda, con Sara, Piazza Alta. Sara, grazie per questo saluto intelligente, veramente. Era. Ogni sera meglio, eh? Sì, sì. Ogni sera meglio. Fa brainstorming. Io andrei con la sigla, grazie. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone.